fondo nascosto un vecchio ricordo di te. E un po' assopito, distratto e assonnato, un vecchio ricordo di te. Lo aspettavo da un poco, sentivo che il fuoco non era lontano da me. Ti ho visto al tuo sguardo, in cui io mi perdo, se trovo un ricordo di te. Si è risvegliato e mi guarda impettito, il vecchio ricordo di te. E chi immaginava che proprio stasera dovesse tornare da me? Chissà se nella mente che il giorno ti prende c'è un vecchio ricordo di me. Chissà se nel passato confuso segnato hai ancora un ricordo di me. Senti che non mente, senti e già come il vento dentro te. Oh, chi ha che porto dentro me? Come se accanto avessi te. E pianto mi lascia il vecchio ricordo di te. E lo lascio fuori, ma sento che spinge sul vecchio ricordo di te. Va bene stanotte, sarà da passare col vecchio ricordo di te. Servirà dentro al cuore per farmi sentire il respiro di te. Vecchio ricordo di te, che nella mente già è un presente passato disarticolato. Com'è stato pensare poi a te? Questo ricordo di te che si fa scudo con me, che sono tristezze qui dentro il ricordo di te.